Allora, parliamo con Alex, 27 giugno 2005, un centenario Wobblies. La prima domanda che gli facciamo è: i Wobblies hanno una particolarità rispetto a altri gruppi che hanno praticato lotte di questo tipo simili. Mi riferisco al loro indirizzamento verso fasce di lavoratori cosiddetti non specializzati, gli unskilled, che in quel periodo, in quell'epoca, comprendevano ampie fasce di migranti, e tra cui tantissimi italiani. Sì, gli italiani finlandesi sono le due minoranze etniche più attive nei Wobblies, insomma, se ne potrebbe discutere, ma di sicuro furono fra i due gruppi etnici più attivi. E, insomma, è interessante che sia Milano che Helsinki, la May Day ispirata dagli Wobblies, abbia luogo. Comunque, invece, affrontando la domanda, è evidente che dal 1890 al 1920 un nuovo tipo di migrazione andava a popolare le ferriere del Nord America, e si trattava di, come dire, una immigrazione che non era facilmente assimilabile dai bianchi protestanti. Erano sostanzialmente i contadini del Mediterraneo, italiani, greci e spagnoli, e i contadini dei Balcani e dell'Europa centro-orientale, quindi serbi, slovacchi, cechi, ebrei che fuggivano dai pogrom. Questi sono i gruppi etnici su cui il messaggio Wobbly ebbe più presa, senza dubbio. Cioè, quindi l'originità dei Wobs, come insomma si chiamavano in slang fra di loro, che pure erano i Wobblies un gruppo americano nativo, nel senso che William Haywood, Big Bill Haywood, aveva sangue indiano, e gli Wobblies originano dai sindacati minatori del West, no? Dall'Idaho, dal Montana. Eppure il loro messaggio, che è una certa quintessenza di giustizialismo sociale americano, raggiunse i precari dell'epoca, i raccoglitori di frutta del Southwest che parlavano spagnolo, addirittura i lavoratori rurali neri, i migranti hobos di ogni tipo che vagavano da Chicago verso l'Ovest in cerca di lavoro temporaneo, e i taglialegni a giornata del nord-ovest americano, dell'Oregon, gli operai italoamericani dell'industria tessili dell'est, soprattutto i mitici scioperi di Lawrence nel Massachusetts nel 1912, vittoriosissimo, e che, diciamo, la lotta che lanciò la minaccia dei Wobblies su livello nazionale e portò intellettuali radical ad avvicinarsi alla loro causa. E appunto lo sciopero dei Patterson nel New Jersey, appunto, invece uno sciopero che si concluse, degli operai della seta, che si concluse con una sconfitta. Entrambi vertevano sulla giornata di 8 ore, no? Insomma, come dire, il mio amore per gli Wobblies è sconfinato, però la mia conoscenza di essi non sarà mai sufficiente. Comunque, come dire, era un disegno completamente rivoluzionario, cioè si contrapponeva al sindacalismo moderato dell'American Federation of Labor, e voleva organizzare gli unorganizable, voleva essere la più grande cosa sulla faccia della terra attraverso l'azione diretta, lo sciopero, il sabotaggio, con un strumento di organizzazione industriale, quindi per dipartimenti industriali. Voleva asserire il potere dei lavoratori uniti contro il grande capitale, ok? Per stabilire, cioè per sta istituire un cooperative commonwealth, cioè un'economia alternativa, bypassando completamente l'azione politica, cioè attraverso l'azione sindacale giungere a una nuova società organizzata per grossi dipartimenti industriali, cioè secondo appunto questa specie di ruota della fortuna che era la base dell'organizzazione Wobbly dal 1905, per cui l'economia era divisa in grandi settori, e appunto il discorso era che nelle industrie metallurgiche organizzavano tutti, nelle industrie tessili, tutte le figure di lavoratori che a loro si avvicinavano, che fossero wage earner, cioè lavoratori salariali. L'abolizione del sistema salariale era un articolo di fede per i Wobblies, e organizzavano quindi donne, immigrati, bianchi, neri, gialli. Non so, Elizabeth Gurley Flynn è un'agitatrice, una delle più grandi agitatrici Wobbly. Insomma, una biografia rivoluzionaria quasi impensabile, cioè da vari punti di vista gli Wobblies erano in anticipo sui tempi, tanto è vero che poi l'industrial unionism verrà ripreso dalla CIO durante il New Deal per riuscire finalmente a organizzare sindacalmente questi immigrati di terza generazione, cioè che succedevano agli inglesi prima e poi agli irlandesi tedeschi, no? E quindi sono quelli che abbiamo detto prima. Quindi, insomma, questa è la lezione contemporanea dei Wobblies: organizzare gli unorganizable. E chi sono gli unorganizable oggi? Senza dubbio i precari, senza dubbio i migranti, senza dubbio le donne, senza dubbio le minoranze etniche, senza dubbio come dire, i lavoratori nomadi, ecco, no? Cioè, il nomadismo è una parte centrale dell'identità Wobbly, così come l'industrialismo nel senso sindacale, ecco.